Mi perdonerete se torno su un episodio di una decina di giorni fa, ormai passato d'attualità, quindi secondo le regole della nostra cultura dell'effimero, ma domenica scorsa non ho avuto tempo di parlarvene e mi spiacerebbe lasciarlo cadere nel dimenticatoio. Mi riferisco alle dichiarazioni del generale Bruno Loi, quello che per commentare il suicidio di un cadetto dell'Accademia Militare di Modena, da lui comandata, non ha saputo fare di meglio che osservare che all'esercito non servono persone in conflitto con se stesse. E come a dire che se quel poveraccio ha sentito il bisogno di levare il disturbo, in fondo erano cavoli suoi e né lui né l'esercito c'entravano o c'entrano in nulla. L'episodio, ricorderete, ha suscitato qualche modesta polemica. C'è stata, credo, un'interrogazione parlamentare o qualcosa del genere. Qualche collega del generale ha avuto la bontà di ammettere che si trattava di dichiarazioni inopportune e comunque controproducenti, che è la cosa più importante, ma il ministro della difesa sostanzialmente gli ha coperto le spalle e, come sempre in questi casi, hanno fatto tutti a gara chi smetteva di parlarne per primo. Non so se voi di tutto questo siate restati scandalizzati. Io vi assicuro di no. Incazzato magari un pochino, sì, ma scandalizzato no. Per scandalizzarsi bisogna stupirsi in qualche modo, e non c'è nulla in quelle dichiarazioni e in quel comportamento ministeriale che possa suscitare stupore. Lasciamo perdere il ministro, che in Italia è notoriamente infeudato allo Stato Maggiore, ma di uno che fa il generale dei paracadutisti non è il caso di aspettarsi sensibilità umana e capacità di capire i problemi psicologici. I militari di carriera, per non cadere in contraddizione con la carriera che hanno scelto, appunto, devono abborrire dalla sensibilità e non possono neanche sfoggiare una particolare intelligenza. Storicamente parlando, con l'esercito inteso come istituzione per regolare i rapporti internazionali, per non dire di quelli interni, l'intelligenza ha sempre avuto poco a che fare. Non mi sono scandalizzato neanche quando sabato 30 novembre, quello precedente del uno dell'ultimo, nella prima pagina del Corriere della Sera, un pilastro dell'Ulivo come Indro Montanelli ha trovato modo di pubblicare un editoriale d'appoggio al generale in questione. Un editoriale veramente ignobile, in cui dei parlamentari che hanno denunciato le dichiarazioni di Loi si scrive che a loro la sorte del cadetto suicida interessa probabilmente ben poco, ma l'occasione di cavalcare una protesta che potrebbe anche fare voti non vogliono perderla, e poi delle proteste dei genitori dei chiamati alle armi si ipotizza che il loro scopo è quello di tenere i loro cocchi al riparo della bua. Sono dichiarazioni piuttosto rivoltanti, ma che volete farci? Quando uno ha cominciato la sua carriera come volontario in una guerra coloniale e per mezzo secolo abbondante ha costantemente difeso i detentori del potere, quali che fossero, democristiani o uliveschi lo stesso, il fatto che abbia litigato con Berlusconi e che da un po' ricordi con insistenza di aver passato qualche settimana a San Vittore nel 45 non basta per riciclarsi. Se qualcuno ha creduto davvero di poter considerare Montanelli come un sincero democratico, magari un liberale un po' di destra, ma sincero democratico, beh, peggio per lui. Mi permetto invece di segnalarvi un particolare su cui, forse per abitudine al modo di dire, avrete probabilmente sorvolato. Di fronte alla questione base, a quella del perché quell'aspirante ufficiale abbia deciso di buttarsi dalla finestra, Indro Montanelli non si turba più del generale Loi e del ministro Andreatta. Riferisce una voce, presa chissà dove, secondo cui il poveretto era rimasto sconvolto dal fatto che gli avevano rubato un cappotto, e conclude che se le cose stanno così, il povero ragazzo doveva essere affetto da una crisi depressiva, e facendone così la vittima di un male oscuro, proprio così, di un male oscuro virgolettato, di cui lui, Montanelli, assicura di intendersi per esperienza personale. Io non voglio mettere in dubbio quella competenza, ma vi prego di notare come siano utili le crisi depressive. Risolvono sempre una quantità di problemi. perché se di qualcuno diciamo con una metafora ormai invalsa nell'uso che è depresso, sottintendiamo sempre due ipotesi: o che il suo stato deriva dall'attività deprimente, depressiva, depressoria di qualcun altro, attività che dovremmo quindi individuare, se possibile denunciare o impedire, che cose che possano comportare delle implicazioni a cui magari non teniamo affatto, o che sia depresso per deficienze sue, cosa che nel caso specifico non sta bene affermare, perché de mortuis nisi bonum. E poi appunto il problema è chiudere l'episodio, non rivangarlo. Ma se ne facciamo la vittima di una crisi depressiva, evitiamo questa alternativa sgradevole e pericolosa. Una crisi è una crisi, è una crisi, non dipende da nessuno, era l'inaguato, era un fattore oggettivo la cui esistenza non possiamo attribuire certamente all'attività di nessuna istituzione. Il poveretto ne è stato la vittima, come quando c'è in giro un virus, qualcuno finisce fatalmente per beccarselo, insomma. Che poi le crisi di questo genere siano soltanto delle astrazioni, dei modi sintetici per alludere a una quantità di concreti rapporti interpersonali che hanno per lo più a che fare con il come i singoli reagiscono alle esigenze che altri pongono loro, e in ultima analisi con la varia capacità che ciascuno ha di resistere alle pressioni del potere altrui, beh, questo non aspettatevelo di sentirvelo dire dai vari Indro Montanelli. È proprio per non dover ammettere una cosa del genere che i tipi come lui hanno inventato le astrazioni.